In pratica questa mattina c'è stata notificata un'ordinanza comunale dal settore ambiente in cui si dà l'inibizione dell'utilizzo dello spazio palestra per l'attività sportiva. In pratica cosa è successo? Alcuni mesi fa c'è stato notificato da ARPA che noi eravamo fuori decibel, quindi abbiamo avuto problemi di insonorizzazione con la palestra. Noi in passato abbiamo già eseguito i lavori di insonorizzazione, purtroppo questi lavori qua non sono bastati. Abbiamo sentito diversi specialisti del settore per concludere questa insonorizzazione, solo che non, per motivi tecnici non riusciamo ad insonorizzare. E noi abbiamo avviato una trattativa con le istituzioni, ormai siamo più di un anno che siamo in trattativa con le istituzioni per trovare una soluzione a questo problema. E ci siamo trovati stamattina che sono stati svegliati dei vigili urbani in cui ci hanno notificato un'ordinanza di inibizione appunto dell'utilizzo della palestra. Ecco. E purtroppo siamo in questa condizione qua, non per colpa nostra, perché comunque noi siamo in questa condizione da agosto 2020, da quando siamo usciti, da quando siamo stati buttati fuori, o meglio dire, dalla palestra Gino Milli, e abbiamo dovuto trovare in 448 un immobile per poter continuare la nostra attività sociale e sportiva. Noi siamo una palestra popolare, come penso che sappiate, e niente, ci siamo trovati in questo immobile in via del lavoro, sotto un palazzo popolare. Purtroppo abbiamo un problema con un vicino e insomma, ecco, non siamo riusciti. Ma questa ordinanza comunale, voi come la leggete? Come uno stop alle trattative che erano in corso col comune? No, secondo me è più un atto dovuto da parte dell'ufficio ambiente per farla, però noi al comune abbiamo già spiegato più volte che questa ordinanza qua sul rumore la possono sospendere, e abbiamo chiesto più volte una trattativa su immobili, abbiamo avanzato diverse proposte su diversi immobili, purtroppo queste trattative qua per adesso sono ancora ferme al palo. E noi abbiamo cercato anche altri immobili privati dove poter continuare la nostra attività, ripeto, un'attività legata al quartiere, quindi quartiere San Donato Bolognina, dove operiamo tuttora, e non si trova spazio, non si trova nessun posto dove possiamo continuare con la nostra attività sociale e sportiva. Ecco, ma con questa ordinanza cosa succede adesso sostanzialmente? Cioè l'attività della palestra è sospesa. Non possiamo allenarci. Certo. Noi tra l'altro abbiamo cominciato una rassegna sportiva che è cominciata i primi di marzo, il Bolognina Boxing Camp. Abbiamo fatto già diverse date, tra cui due date all'interno delle corti popolari di via Nicola Dall'Arca, corte 3, dove sono passate migliaia di persone a vedere il pugilato, dove comunque la gente di Bologna, la città di Bologna ha risposto positivamente alla nostra attività sportiva. E adesso ci troviamo in una situazione che non possiamo allenare i pugili o le pugili perché abbiamo questa sospensiva, ecco, questa inibizione. Certo. Abbiamo altre due date per concludere il camp, una il 30 di settembre e l'altra il 16 di ottobre. Concludiamo con una riunione internazionale con Bologna versus Dublino. Ci sarà anche la nostra pugile professionista Pamela che combatterà con una pugile irlandese, però adesso sarà un po' tutto in stand by perché vediamo un attimo come andrà avanti. Ecco, noi di cosa avreste bisogno per come dire, continuare la vostra attività? Cosa chiedete? Noi chiediamo che venga sospesa l'ordinanza, che venga stoppata questa ordinanza qua, che ci dia la possibilità di continuare la nostra attività sociale e sportiva, e di continuare per il momento all'interno dello spazio di via del lavoro finché non troviamo situazione temporanea, finché non troviamo un altro immobile per adibirlo ad uso palestra. Ecco. Però il problema è che non ci sono immobili né pubblici né privati, o meglio, gli immobili pubblici ci sono chiusi da anni e anni e anni, però la trattativa, diciamo, va a rilento, ecco, su questi immobili che comunque non sono di proprietà del comune ma sono di proprietà di enti pubblici, però insomma, le cose andranno un po' per le lunghe.